superficie. Sulla testa qualcuno ti calpesta. Quel che so, ce lo so. Quel che scuro, sembra più duro. Ma sono sicuro. La strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte. Il programmino di Gigi D'Agostino, la chiudi gli occhi e senza il gradino. Cari amici del triangolo rettangolo, benvenuti! Il programmino è tornato. Terza settimana, ci siamo ancora. Oh, finché paghiamo l'affitto qua, ci stiamo, non ci muoviamo. Oh, per chi non ha ascoltato le scorse puntate e quindi non sa cos'è il triangolo rettangolo, il triangolo rettangolo è quella forma geometrica che costruiamo alzando il piedino per battere il tempo. Stiamo facendo nascere, stiamo dando vita al club del triangolo rettangolo. Per aderire bisogna sottoporsi a delle cose molto strane. Intanto fatevi fotografare mentre create il vostro triangolo rettangolo. We'll be right back. anche questa settimana mi sono arrivati un sacco di messaggi, grazie ragazzi. Uno bellissimo mi ha scritto: Gigi sei un grande, al bando le mutande. Vabbè, non ho capito, però mi è piaciuta. Un po' di perplessità, mando la pubblicità. Sempre imbarazzante rispondere a un complimento, a una dimostrazione d'affetto, ma quando lei o lui ti dice ti amo, dire anch'io è un po' terrificante. Dire niente è terribile. Ma che cacchio bisogna dire? Se non rispondi niente, lei pensa, allora non mi ami più. O forse non mi hai mai amato. Non hai il coraggio di dirmelo. Ma forse io non so solo come dirtelo. Ma ti amo molto di più. Ma non posso dire di più. Non posso sminuire ciò che tu stai provando per me. Non capisco. Sentieri cupi, coloratissimi, intensi, propensi. Accendo due incensi. Non c'è tempo, ma c'è un bel tempo. Questo è il tempo. Andiamo a tempo. Programmino senza tempo, ma molto a tempo. di tempo. E il tempo che passa mette sempre un senso di inquietudine. Verrebbe da dire, ma sì, non ci pensare. E come faccio a non pensarci? Passa, lui passa a prescindere dal mio pensiero. E il tempo intanto qua si è rallentato, è lento, violento, lento, violento. This one part with us, you know they car with us, them now why with us. You know the club, them one flex with us, forget next to us, them now vex with us. From the day my band tag, now I'm a flame, can I call my name, and it is my fame. It's all good, girl, turn me on, till I earn them on, let's get it on, let's get it on, till I earn them on, girl, it's all good, just turn me on. Excellent, this one part with us, you know they car with us, them now why with us. You know the club, them one flex with us, forget next with us, them now vex with us. Yeah, you fucked up, percolate anything you want to call it, oscillate it if I don't take pity. Want to see you get live when you really meet a ride, I'm a lyrics up about electricity. Yeah, one for you, don't know you, don't know you. Yo, sexy ladies want to with us, you know the car with us, them now wild with us. You know the club, them want flex with us, they get next to us, them now vex with us. On the demo band, I ignite my flame, can I call my name, and it's for fame. It's all good, girl, turn me on, till I earn them on, let's get it on. Just a fist of your dick, that thing. Amazing, kinda kinda shake with that thing. Young, and I better shake with that thing. Oh, da-da-da-da. Tempo, sì. Jingle. Mi fai sentire il jingle? Tempo. Tempo. Vai. Mi è arrivato un bellissimo messaggio, è anonimo, però è bellissimo. Il tuo silenzio è peggio dell'assenzio, è come un'armonia che non va più via. Ha un ritornello che mi fa impazzire il cervello e sogna la mente con questo ritmo emozionante. E con questo pensierino è finito il messaggino. O mio caro D'Agostino, viva il programmino! E il silenzio. Shhh. ancora tempo per questo tempo. Guarda il tempo. è il viaggio intorno al mondo. È il cammino del programmino. Un messaggino da una ragazza dolcissima, olandese. Ci ascoltano anche in Olanda. Ellen dall'Olanda. Ciao maestro, vorrei ascoltare Digital Dream, The Vision. Posso? Certo. Gigi D'Agostino. Chiaro. E eri ignaro. In un istante. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Messaggino da Frascati, Frank da Frascati, maestro D'Agostino, questo è un ringraziamento, perché con la tua musica ho trovato il sentimento. L'ho conosciuta in Spagna, a Calella, a dire il vero, ora vivo l'amore, il più bello e il più straniero. Grazie Frank. tutto il mondo ascolta il programmino. Il cammino del programmino su RIN Radio Italia Network. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Un'amica da Roma fa un appello a tutti gli ascoltatori del programmino. Se ti piacciono le donne vere, io sono una di quelle, un bel paio di pere. Ragazzi, fatevi avanti. Ragazzi, fatevi avanti. Ricordo il numero della messaggeria, 333-6467-662, me lo sono scritto questa volta, non me lo ricordo mai in memoria. gigi@supergigi.com per la posta elettronica. Ricordatevi di mandarmi la vostra foto del vostro triangolino, rettangolino, il vostro piedino in primo piano, per far parte, forse in futuro, del club del triangolo rettangolo. Messaggi anche dalla Germania, ci ascoltano in internet. Ciao, io sono Bigi, ho sentito il tuo programmino, grandissimo, la canzone tedesca meravigliosa. Questa qua, qualche tedesco se n'è accorto. Anche un'altra carissima amica dalla Germania, ciao Gigi, sono Calimera di Germania, anche lì si ascolta il programmino. Grande, grande. C'è ancora Angelo che mi scrive dall'Italia. Spesso resto incantato osservando il cielo stellato, ma noto che manca qualcosa, forse è la stella più luminosa. Gigi, completa il firmamento, metti star in questo momento. Mother, RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. È fantastico essere qui con voi e guardare il cielo. Triangolino, rettangolino. Dicevo prima del club del triangolo rettangolo. Allora, dovete farvi fotografare mentre ottenete il vostro triangolino battendo il piedino. In primo piano ci deve essere il piedino. Triangolino. Ci mandate la foto? gigi@supergigi.com. Gli altri dati ve li daremo mano a mano, mano a mano, piano piano. Yeah. aspetta un attimo che mi inchino. Tutti inchinati. Sembra che non finisca questa lunga notte d'inverno. Sembra che tardi il sole come fosse in pericolo. Rovine inseguono i ricordi, ma io voglio vivere il presente senza fine. Thank you. protects me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues I rob for this. Static at the same time by it all. Common sense could slap me in the face, and yet I condescend, embarrassed by your obvious indifference, disgusted at the same time by it all. Watching as my ego breaks your interrompere questo magico volo. Siamo in tanti e andiamo avanti. Tutti insieme siamo giganti. Il programmino di Gigi D'Agostino. Un fantastico cammino. Insieme a me io ci guiderò.

sono uscito fuori a guardare le stelle. Forse era meglio contare le pecorelle. Per fortuna avevo con me una manciata di caramelle. E non pensavo che il giorno dopo avrei dovuto ricoprire una parete con delle piastrelle. È bellissimo, ma è molto anonimo anche questo messaggio. Non mi scrivete chi siete, da dove venite. Perché? Come mai? Cambia il tempo sul programmino e il cammino diventa un po' lentino. Rettangolino. Vi ricordo allora di farvi immortalare mentre create il vostro triangolino. Rinoceronte. Mario Italia è pure mio. Dici gelosia. Get the voice. Pubblicità. Taradatata. Voglio più scendere, non riesco più a scendere, ma soprattutto non voglio, anche se dicono che sognare troppo è pericoloso. Perché sogni e vedi cose che non esistono, che non possono esistere, che non possono coesistere. Questo è il sogno. Ne ho bisogno. quanti bei messaggi. Gigino, sto attento al gradino, ma il programmino mi prende un casino e senza volere ci sbatto il faccino, ma senza paura continuo il cammino. Non devi aver paura. Che paura? E forse è proprio sbattendo la faccia che si abbattono certi muri. Quei muri che ci fanno agire forse male, ci provocano feritone, quelle ferite che poi ti rimangono. Allora forse invece proprio sbattendo la faccia, consapevolmente però, che si può abbattere o superare quel muro troppo duro, poco sicuro. Sulla testa, musica. Sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, ma non so più se è giorno o notte. un'assoluta incostanza del programmino. Cambia strada durante il suo cammino, non percorre un solo sentiero, forse perché non sa assolutamente quale sia quello più giusto, sempre se esiste il sentiero giusto. Non so più cosa sia giusto e sbagliato. Sideways, I'm trying. un po' di messaggi ancora che vorrei leggerli, purtroppo non posso leggerli tutti. Per Luca da Elisa di Roma vorrei salutare un mio amico importante, un po' esuberante, prepotente e arrogante, ma intelligente e molto divertente. D'Agostino, sei un DJ sopraffino e anche un po' divino. Dario da Catania, grazie. Poi c'è, bellissima, ogni tua parola mi fa divertire, ma ogni sua nota mi fa rabbrividire. E lei è musica che parla, impossibile imitarla, devi solo ascoltarla, respirarla. Grazie Giusy. Testa. Anche oggi musica. Grazie per aver viaggiato anche oggi. Vi siete stancati? Grazie per avermi iscritto, così tanti messaggi, così tante mail. Io li leggerò mano a mano nel corso delle settimane, se ce la faccio. Il programmino non si ferma qui, continua il suo cammino. Sulla testa. Grazie Rin che mi lascia perseguire il fascino liberamente. Musica. tutti i sabati e in replica la domenica, dalle 14 alle 16. Ascolta e credici. Sta terminando. Il grande viaggio. Per chi ha coraggio. Abbracci forti, forti, forti. Baci, baci, baci. Grazie. Ora le cose sono due. O vado io o viene Beppo 82. Va, no, lui rimane. Cioè, io vado e lui che rimane.